Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi puntata speciale da Strasburgo, un appuntamento che ormai è divenuto una piacevole consuetudine per il nostro programma. Per il quarto anno consecutivo ci spostiamo nella capitale alsaziana ed europea, più precisamente negli studi dell'Europarlamento da dove vi stiamo trasmettendo. La puntata odierna segna anche la conclusione dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa 2015, che ci ha tenuto compagnia per ben due mesi. In queste settimane avete inondato di proposte la nostra casella email e proprio questa settimana abbiamo scelto, insieme ai rappresentanti dell'ufficio del Parlamento Europeo di Milano, nostro partner nell'iniziativa, le migliori. Quattro di voi potranno quindi visitare il prossimo autunno questo edificio nel cuore dell'Alsazia e vivere un'esperienza a diretto contatto con l'Europarlamento riunito in sessione plenaria. Altri quattro potranno invece entro fine ottobre ricevere un pass per visitare il padiglione europeo di Expo 2015 a Milano. Siamo nel cuore d'Europa, la nostra riflessione iniziale non può dunque che partire da un dato molto europeo che ci deve far riflettere. L'Italia è il paese meno giovane del continente, il suo tasso di popolazione sotto i 30 anni pari al 29% è il più basso di tutti i 28, secondo Eurostat. Dopo di noi la Germania, mentre i paesi più giovani sono Irlanda e Cipro. Dati che ci fanno riflettere sull'assoluta necessità di valorizzare al meglio le nostre poche forze giovani e più qualificate. Anche, e qui mi aggancio a un altro dato europeo, attraverso l'innovazione. Stando all'Innovation Union Scoreboard della Commissione Europea, la penisola risulta essere un paese a moderata innovazione, il cui tasso innovativo ha fatto persino registrare una caduta lo scorso anno. Appare fortunatamente migliorato il sistema della ricerca tricolore grazie all'incremento dei dottorandi extraeuropei, ma si è registrato un forte declino negli investimenti in venture capital. Giovani e innovazione, il binomio insomma da cui ripartire, questo non ci stancheremo mai di ripeterlo. Prima di cominciare però un ultimo dato, e ce lo fornisce l'Istat proprio questa settimana, che ci dice che negli ultimi anni è raddoppiata la fuga dei cervelli dall'Italia. 3.000 dottori di ricerca del 2008 e 2010, il 12,9%, vivono abitualmente all'estero, così ci dice l'Istat. Abbandoniamo ora i preamboli e andiamo subito a conoscere le storie dei due giovani talenti protagonisti della puntata odierna. Sono entrambi under 40 e hanno scelto l'Europa quale punto di approdo della loro carriera lavorativa. Mi chiamo Elisa Reschini, ho 33 anni, vengo dalla provincia di Macerata, mi sono trasferita per la prima volta nel 2003 a Parigi per poi trasferirmi a Bruxelles e attualmente sono funzionaria del gruppo della GUE-NGL, del Parlamento Europeo. Sono Guido Pupillo, 38 anni, sono di Bologna. Ho lasciato l'Italia nel 2001 per fare un dottorato negli Stati Uniti, in Maryland. Dal 2005 al 2011 sono stato in Austria e dal 2012 sono un professore di fisica all'Università di Strasburgo in Francia. Io ne approfitto per salutare anche Pietro Naioleari, che purtroppo per un previsto dell'ultimo momento non è potuto essere con noi, ci doveva essere anche lui, foto editor al sito internet dell'Europarlamento, ma sicuramente avremo occasione poi di tornare a parlare con lui. E inizio con una domanda generale rivolta a entrambi, una domanda di tipo logistico. Dovendo scegliere per vivere e lavorare una tra le due capitali europee, quale consigliate, la belga Bruxelles o la alsaziana Strasburgo? Elisa? Io direi Bruxelles, Strasburgo risulta essere un po' troppo piccola per i miei gusti. Io ho già scelto, vivo a Strasburgo da 3 anni e è una piacevolissima città secondo me dove vivere, e anche una serie di culture e lingue diverse. È interessante, avete due visioni diverse. E quanta Europa intesa come ambiente internazionale si respira tra Bruxelles e Strasburgo, Elisa? Beh, Bruxelles è una città chiaramente molto internazionale, dove la maggior parte delle istituzioni europee hanno la propria sede. Noi del Parlamento ci trasferiamo a Strasburgo solamente una volta al mese, quindi Strasburgo per me è una città che non conosco affatto. Sentiamo Guido, allora spiegacela tu un po'. Beh, Strasburgo è fisicamente posta al confine fra Francia e Germania e è dal centro dell'Europa, quindi diciamo che ha una vocazione europea molto evidente. In più c'è il Parlamento Europeo, una grande università internazionale, e quindi direi che per una città che tutto sommato di medie dimensioni è sufficientemente cosmopolita. Allora, partiamo con le vostre storie. Cominciamo con Elisa, iscrizione a economia aziendale alle spalle, poi periodo di interruzione degli studi, anche di riflessione se vogliamo col trasferimento a Liverpool. Allora, quanto è stata fondamentale quella